24 ore. Presidente del Consiglio Monti al Senato illustra la manovra. Pare rituale, privo di fondamento, dice lo slogan. Pagano i soliti noti. Nel pomeriggio il voto conclusivo, i DV e Lega voteranno no. Gli americani hanno lasciato il paese da una settimana e riesplodono le tensioni fra sciiti e sunniti in Iraq. Oltre 10 attentati e decine di morti a Baghdad. Buste e sospetti a Milano, alla sede della Borsa ed Equitalia. L'accordo governo-regioni per i soldi sul trasporto pubblico locale c'è, ma alcune città come Torino e Roma annunciano aumenti sui prezzi dei biglietti. Buona giornata dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. In primo piano dunque la manovra nel giorno del voto definitivo in Senato. Poco fa le parole del Presidente del Consiglio Mario Monti, in diretta con noi da Roma, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Un intervento, quello di Mario Monti, teso a difendere il provvedimento che oggi sarà approvato dal Senato. La manovra, ha spiegato il Premier, è un decreto di estrema urgenza che mette in grado l'Italia di affrontare a testa alta la gravissima crisi europea. Quanto ai contenuti, appare rituale, ripetitivo e privo di fondamento, ha aggiunto Monti lo slogan «pagano i soliti noti». Non è così. Il Presidente del Consiglio guarda quindi al futuro, alla cosiddetta fase 2 del suo governo. Ascoltiamo allora Monti. Sulla fase che ora si apre, voglio dire, per quanto riguarda un tema che sarà chiave in questa nuova fase, il mercato del lavoro e gli ammortizzatori sociali, che sarà necessario e possibile procedere con uno stile di rapporto con le parti sociali diverso da quello che abbiamo dovuto avere in questa prima fase. Perché? Perché rispetto a temi come la fiscalità o come le stesse pensioni, il tema del mercato del lavoro richiede per sua natura un maggiore dialogo con le parti sociali. Ritorno alla crescita, dialogo con le parti sociali, più coraggio nelle liberalizzazioni, la ricetta del professor Monti, che rivolgendosi quindi al Senato ha detto non è mai venuto meno il rispetto di questo esecutivo per il Parlamento. E infine il ruolo dei partiti, ha detto Monti, il loro appoggio è maggiore di quanto appaia ai cittadini. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo. Già si sapeva della Lega, questa mattina anche Italia dei Valori ha annunciato il no alla fiducia. Elisabetta Fiorito. Sì, proprio così Piera, l'Italia dei Valori voterà no alla manovra a Mario Monti contro quello che chiamano un governo di banchieri. Sono così i due gruppi parlamentari contro l'esecutivo tecnico, Lega Nord e il partito di Di Pietro. Le dichiarazioni di voto sono in corso qui in Senato, sta parlando Giovanni Pistorio del gruppo Misto, poi ci sarà il voto di fiducia, a quel punto la manovra sarà definitivamente legge. Momenti di tensione in aula questa mattina quando il Presidente del Senato Renato Schifani ha comunicato di aver censurato il capogruppo Federico Bricolo, il capogruppo della Lega, e molti dei senatori leghisti che ieri avevano esposto il cartello con su scritto governo ladro. Mentre Roberto Calderoli annuncia che il 22 gennaio il Carroccio sarà in piazza a Milano per urlare no al governo dei banchieri e ad una nuova stangata solo per i padani. Dopo le critiche invece di Silvio Berlusconi alla manovra di troppe tasse, il senatore del PDL Altero Matteoli garantisce che il partito voterà compatto la fiducia. Per il momento qui da Palazzo Madama è tutto, per studio. Grazie Elisabetta. Sono in corso accertamenti sulle due buste contenenti polvere sospetta recapitate stamattina alla sede della Borsa di Milano in Piazza Affari, a quella di Equitalia in via San Gregorio. Vi terremo naturalmente aggiornati. E andiamo invece all'estero. Almeno 63 persone sono rimaste uccise, oltre 180 ferite, secondo l'ultimo bilancio del governo iracheno, in una serie di attentati questa mattina a Baghdad. Attentati che avvengono in un momento in cui si è acuita la tensione fra gli schieramenti politici sciiti e sunniti dopo la partenza delle ultime truppe americane. Le esplosioni, 11 in tutto, hanno colpito indiscriminatamente quartieri sciiti e sunniti della capitale irachena. E in Siria arrivano gli osservatori arabi, anche se non si fermano anche qui le violenze. Arriveranno oggi, saranno solo una trentina ed il loro compito sarà tutt'altro che facile, perché la repressione contro la rivolta siriana continua. Anzi, negli ultimi giorni ha toccato in termini di vittime numeri senza precedenti. E anche oggi sono già stati uccisi alcuni civili. Il primo team di osservatori inviati dalla Lega Araba dovrà preparare il terreno per la missione degli altri team, il cui compito sarà di monitorare la situazione della sicurezza e verificare l'attuazione del piano di pace messo a punto dalla Lega Araba. Agaba e accettato, almeno sulla carta, da Damasco. L'opposizione, e non solo, accusa però il regime di aver accettato il piano solo per guadagnare tempo e sembra che il regime voglia assestare un duro colpo prima che gli osservatori vengano dislocati nelle aree più calde. Negli ultimi due giorni, accusa l'osservatorio siriano per i diritti umani, le vittime sono state più di 200. Solo ieri avrebbero perso la vita oltre 110 civili e un numero imprecisato di disertori. Si parla di alcune decine. Diversi paesi occidentali però sembrano aver perso la pazienza. Guidati da Stati Uniti e Francia stanno facendo pressioni sulla Russia, paese vicino a Damasco con diritto di veto, di accelerare i negoziati per una risoluzione sulla Siria al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Roberto Bongiorni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'allarme per le protesi mammarie a rischio importate dalla Francia. In corso la riunione del Consiglio Superiore di Sanità convocata d'urgenza dal Ministro della Salute Renato Balduzzi per definire la questione dal punto di vista italiano. Non esiste allo Stato nessuna ragione per creare allarmismi, ha ripetuto ieri il Ministro. In Italia si muore ancora di parto, si fanno più cesaree che negli altri paesi europei e nascono molti più bambini figli di immigrati che di italiani. È la fotografia presentata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori e disavanzi sanitari in merito alle nascite. Se parliamo di nascite in Italia, ci sono ancora molte strutture a rischio, soprattutto nel mezzogiorno, ha detto il presidente della Commissione Leo Luca Orlando, intervistato da Cristina Carpinelli. La fecondità delle donne 1,3%, significa siamo a crescita zero. Il dato significativo, il numero crescente di partorienti immigrate che oscilla dal 14 fino al 25%, sino a un bambino su 4 in Italia nasce da madre non italiana. Ci sono anche, questo è un dato che fa impressione, 351 decessi durante il parto. Questo numero è calcolato sull'anno? Questo numero è calcolato su un semestre, il secondo semestre del 2010, e fa riferimento sostanzialmente a 17 realtà regionali su 21. I morti alla Thyssen di Torino e morti all'Eternit di Casale Monferrato, due storie che si intrecciano drammaticamente. Ora il Comune di Torino deve decidere il risarcimento o prosecuzione del processo. Dopo Casale Monferrato anche Torino. Il dilemma se accettare un'offerta a titolo di risarcimento per un fatto grave quale l'incendio in cui 4 anni fa persero la vita 7 operai della Thyssen, ora riguarda il sindaco Fassino e la sua giunta. Fin qui le assonanze, molte a dir la verità le differenze. A Casale Monferrato l'offerta da parte del magnate svizzero Schmidani per oltre 18 milioni arriva a due mesi dalla sentenza di primo grado per il disastro dell'Eternit. Nel caso di Torino invece la condanna in primo grado per i dirigenti Thyssen c'è già stata, pesante, con in totale 81 anni di condanna per l'ex AD della società e 5 dirigenti. 1 milione di euro il risarcimento stimato per il Comune, orientato ad accettare e destinare le risorse al tema della sicurezza sul lavoro, non prima però di aver ascoltato il punto di vista dei familiari delle vittime. L'offerta da parte della Thyssen anticiperebbe il pagamento senza dover aspettare la conclusione dei 3 gradi di giudizio, a patto che l'amministrazione rinunci a costituirsi parte civile. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. Non posso parlare per il momento, siamo in operazione. Comunque io sono sapere se è tutto ok. Tutto a posto comunque, tutto a posto per adesso. Quello che avete sentito è Giuseppe Lubrano, il comandante della petroliera Savina Caylin, liberata ieri dai pirati dopo 10 mesi di sequestro al largo delle coste della Somalia. Il comandante è stato contattato dal quotidiano online Libero Reporter subito dopo la liberazione, che sarebbe avvenuto, dicono i pirati somali, dietro il pagamento di un riscatto da oltre 11 milioni di dollari. La Farnesina e la società armatrice però smentiscono, ma un pagamento c'è stato sicuramente, ci dice Gaetano Baldi, con direttore di Libero Reporter, che ha seguito la vicenda fin dall'inizio. Lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. Tutti i sequestri di questo tipo vengono, diciamo, risolti con il pagamento del riscatto. Capire effettivamente quale sia la cifra, questo ovviamente non è possibile saperlo. Bisogna anche considerare che i pirati hanno tutto l'interesse a far sì che le cifre salgano, perché questo per i prossimi sequestri comunque li giustifica per le richieste che fanno. In questi casi chi se ne fa carico? L'armatore o lo Stato? Sicuramente una trattativa di tipo, diciamo, privato, che non interessa le autorità italiane. È stato l'armatore a mediare con i pirati a bordo, per cui di sicuro sarà stato l'armatore a concordare come far uscire da questa situazione i nostri connazionali e gli indiani. Sono situazioni che vengono coperte dalle assicurazioni degli armatori? Ci sono vari tipi di assicurazioni per chi affronta questo tipo di viaggi. C'è anche questo tipo di polizza che prevede, diciamo, un attacco da parte dei pirati in sequestro. Non è detto che l'abbiano contratta al momento della partenza, sono documenti che tiene l'armatore e che difficilmente fa trapelare che cosa ci sia. Anche perché nella zona ormai questo mercato, tra virgolette, è fiorente, sono molti gli equipaggi che sono tuttora tenuti in ostaggio. Sono tantissimi, sicuramente è un business per tanti, non soltanto per i pirati. I costi delle assicurazioni per il passaggio in quei mari sono considerati come zone di guerra al pari di Iraq e Afghanistan, quindi i costi sono lievitati di tantissimo, dai 900 euro che si pagavano giornalmente siamo passati ai 9.000 euro. Il problema è che in Somalia purtroppo non c'è un governo riconosciuto e quindi questo crea un enorme problema dal punto di vista diplomatico. Bisognerà in qualche maniera far sì che si adottino delle misure particolari sulle imbarcazioni, come abbiamo potuto vedere per la Monte Cristo con la Panic Room, che permette all'equipaggio di asserragliarsi all'interno di una stanza blindata ed evitare di essere catturati. Anita Ekberg si trova in serie difficoltà economiche e chiede aiuto alla Fondazione Fellini. Marcello, come here, hurry up. Sola, completamente sola. D'accordo che a 80 anni si può essere gli unici superstiti nella cerchia dei propri affetti, ma un amico o qualcuno che ti tenda la mano? Niente. E ancora una volta la vita conferma quanto possa essere amara, anche con chi è stata dolcissima per una lunga stagione, anzi, persino con chi ha addirittura incarnato la dolce vita. Lei, Anita Ekberg, l'attrice svedese assurda a divinità, con le gambe immerse nella fontana di Trevi, di fronte a un Marcello Mastroianni senza fiato, padrona di una bellezza così abbagliante da illudere che fosse eterna. E invece il tempo si è accanito anche su di lei, trascinandola lontano anni luce dal bianco e nero incantato del capolavoro di Fellini e trasformandola da sogno erotico degli anni 60 in un'anziana signora malandata, non più autonoma, che sopravvive in una casa di riposo ai Castelli Romani. Per lei, ormai in una grave situazione di indigenza, la pensione ottenuta con la legge Bacchelli per gli artisti in disgrazia non è sufficiente, l'amministratore di sostegno nominato dal tribunale chiede aiuto alla Fondazione Fellini di Rimini, che però ha scarsi fondi. Qualcuno dirà: c'è tanta gente che ha bisogno e nessuno si muove, ma Anita, che dice che la solitudine è anche peggio della povertà, e tra quelle persone che hanno saputo regalare un sogno. Forse si può ricambiare regalandole un po' di dignità. Roberta Giordano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Presidente del Consiglio Monti al Senato illustra la manovra. Pare il rituale privo di fondamento, dice lo slogan "pagano i soliti noti". Nel pomeriggio il voto conclusivo, i DV e Lega voteranno no. Gli americani hanno lasciato il paese da una settimana e riesplodono le tensioni fra sciiti e sunniti in Iraq, oltre 10 attentati e decine di morti a Baghdad. E ripartiamo parlando di trasporto pubblico locale. Ieri in questo stesso GR vi davamo conto dell'accordo governo-regioni a cui arriveranno risorse per 1.600.000.000. Nonostante questo, Torino e Roma hanno annunciato rincari per i biglietti nel 2012. Aumenti inevitabili, secondo Marcello Panettoni, presidente di Astra, l'associazione delle aziende di trasporto pubblico, al microfono di Anna Marino. Le ragioni sono sostanzialmente due. Nella media, già nel 2011, le regioni italiane hanno tagliato circa il 7-8% delle risorse prima disponibili per il trasporto pubblico locale, chiamiamolo su gomma, i tram, le filovie, le metropolitane, riducendo quindi il monte delle risorse disponibili. Questa è la prima ragione. Già nel 2011 questo è accaduto. In secondo luogo, le nostre tariffe sono mediamente molto più basse della media dei paesi europei, dal 30-50%, e in molti casi erano ferme da molti anni, quindi diventa inevitabile. Quindi secondo lei gli aumenti hanno una base che deriva da lontano, quindi nonostante i soldi arrivati devono essere fatti? Certo che sì, anche perché le tariffe e i contributi pubblici erano fermi da tempo e quindi in questi anni le aziende hanno dovuto assorbire, senza che nessuno avesse trovato misure compensative, tutto l'aumento dei carburanti che ha inciso a livello italiano per circa 180 milioni di euro. Quindi i soldi che arriveranno dalla manovra a che cosa serviranno? sostanzialmente servono per ricostituire l'ammontare necessario a far funzionare i treni del trasporto regionale gestito da Trenitalia. In genere gli italiani tendono a lamentarsi del traffico e del ritardo nei mezzi pubblici, qualunque sia la città in cui abitano. Immaginiamo dunque che i torinesi si stupiranno nell'apprendere che il loro comune ha vinto la medaglia d'oro della mobilità sostenibile, a premiare il capoluogo piemontese l'annuale ricerca di Euromobility condotta su 50 città italiane. Torino vince per la sua attenzione ai trasporti pubblici, per il miglior car sharing, per il buon numero di auto a basso impatto ambientale e l'elevata sicurezza stradale. Argento a Venezia, bronzo a Milano. Nelle prime 10 posizioni solo Città del Nord, eccettuata Firenze, che guadagna il 9° posto, fanalini di coda a Campobasso e Foggia. C'è da rallegrarsi per la diffusione sempre maggiore del bike sharing e le bici a noleggio comunali e per la diminuzione, anche se lieve, del numero di auto, passati da 61 a 60 per ogni 100 abitanti. Ma quest'ultima è una buona notizia o un segno della crisi? Lorenzo Bertuccio, direttore scientifico di Euromobility. Ma noi speriamo che sia una buona notizia. La crisi può essere un'occasione per questa inversione di tendenza e quindi allinearsi in qualche modo a un indice di motorizzazione europeo. Siamo molto distanti, in Europa ne contiamo 46 media, nelle nostre principali città ce ne abbiamo 60 di auto. Frenata per le auto GPL metano, colpa degli incentivi non rinnovati. Tornando ai primati, a Latina e L'Aquila va quello per le auto più numerose, 72 ogni 100 abitanti, a Napoli quello per il numero di auto più inquinanti, ad Ancona quello per il più alto tasso di polveri sottili, e in questo caso saranno i milanesi a stupirsi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Due persone sono state arrestate con l'accusa di aver provocato lo scorso 9 ottobre il tamponamento a catena sull'autostrada Piacenza-Torino, nel quale fu coinvolto il pullman del Torino Calcio. Nello scontro rimasero uccisi due ragazzi di 35 e 31 anni, manette due torinesi di 39 e 27. British Airways mette le mani su British Midland, la compagnia che due anni fa era entrata nell'orbita Lufthansa. L'ultimo capitolo del consolidamento in corso da anni nell'industria del trasporto aereo ha come protagonista la British Midland, conosciuta anche come BMA. 3.500 addetti, una flotta di 47 aerei, una media compagnia acquisita nel 2009 dalla Lufthansa che non è mai riuscita a generare profitti. Ora la holding che raggruppa British Airways e Iberia acquisirà il vettore per 207 milioni di euro. Per British è un bel colpo perché in questo modo la compagnia britannica consoliderebbe la propria posizione nel mercato interno, aggiudicandosi in un sol colpo più della metà degli slot di atterraggio all'aeroporto londinese di Heathrow. Proprio per questo motivo la concorrente Virgin Atlantic, che a sua volta aveva tentato di aggiudicarsi BMI, ha annunciato ricorso all'antitrust. Il rischio che la stessa British ammette è che le autorità impongano la cessione di una parte degli slot di atterraggio a Heathrow. La ristrutturazione comporterà inevitabili riduzioni del personale e una probabile razionalizzazione delle rotte di BMI, che in Italia raggiunge gli aeroporti di Venezia, Torino, Roma, Napoli, Milano e Bologna. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È iniziato il dibattito all'Assemblea nazionale francese sulla legge contro la negazione dei genocidi, compreso quello armeno che la Francia ha riconosciuto nel 2001. Intorno all'edificio si sono radunate decine di manifestanti per protestare contro il testo in discussione. Il progetto di legge prevede di punire con il carcere fino a un anno, un'ammenda fino a 45.000 euro, chi nega i genocidi ufficialmente riconosciuti dallo Stato francese, fra cui c'è anche quello armeno. La vicenda sta creando inevitabilmente tensioni diplomatiche con la Turchia. E restiamo in Francia per parlare del riassetto Edison, che vede contrapposti Italia e Francia. Tutta Edison ai francesi, tutta Edipower agli italiani. Sostanzialmente la proposta italiana avallata anche dal ministro dello sviluppo Corrado Passera, che questa mattina ha incontrato il presidente di EDF Henri Proliot. Sentiamo le reazioni dal fronte francese con il corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, Marco Moussanet. Marco. Poche reazioni sulla stampa francese questa mattina in relazione alla vicenda EDF Edison, niente di più di una trentina di righe sul quotidiano economico Les Echos, anche se è chiaro che c'è un pochino di stupore in Francia per l'andamento della vicenda. EDF è un colosso pubblico abituato a vincere più o meno sempre, il suo presidente Henri Proliot ha la fama di duro e dereduce da una vittoria sul fronte del nucleare francese, e sembrava che anche la vicenda italiana fosse quasi una passeggiata. In realtà si sta rivelando più complicata del previsto, il dossier è politicamente molto sensibile, il governo italiano è sceso in campo, è chiaro che a questo punto non è più sufficiente la forza economica e finanziaria di EDF per vincere questa battaglia, la partita diventa più complicata da gestire e sicuramente questo stupisce un pochino i francesi e in parte probabilmente la stessa EDF, che pensava di aver a questo punto portato a casa l'accordo risolutivo. Arrestato a Milano un mediatore finanziario completamente sconosciuto al fisco. L'uomo era ufficialmente residente in Svizzera, ma di fatto viveva in un lussuoso appartamento nel centro di Milano. Riceveva da diversi imprenditori ingenti somme di denaro che apparentemente venivano investite nel mercato dell'energia rinnovabile. Sequestrate una villa con piscina, palestre, annesso fitness center in Sicilia, una Harley Davidson, un lussuoso yacht con annesso personale di bordo, ben due Porsche. Ed ora il nostro appuntamento quotidiano sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Si possono evadere le tasse anche sfruttando eBay. Come? Vendendo prodotti su internet, senza neppure aprire una partita IVA. Tra i tanti casi, significativo quello di un commerciante che per sfruttare il potenziale delle nuove tecnologie ha pensato bene di aggirare le norme sul commercio creandosi online una vetrina espositiva di prodotti che venivano immessi sul circuito di vendita eBay con modalità irregolari. Dal 2007 l'evasore tecnologico vendeva ingenti quantità di motoveicoli e ciclomotori pur non essendo titolare di partita IVA, rimanendo pertanto nascosto al fisco e sottraendosi quindi ai dovuti oneri contributivi. Un modo fin troppo semplice di fare affari frodando il fisco, fruttato all'ideatore 300.000 euro di tasse non pagate. Ci vorrebbero maggiori controlli, soprattutto virtuali. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Il 26 gennaio, in corrispondenza con il suo 30° compleanno, la Filarmonica della Scala inaugurerà con il Bolero di Ravel, diretto da Daniel Barenboim, un progetto per diffondere nei cinema alcuni suoi concerti in diretta dal Teatro alla Scala. Il progetto verrà proposto da prima in 200 sale in Italia e poi in un totale di 1.400 sale anche all'estero. Il direttore artistico della Filarmonica della Scala, Ernesto Schiavi, al microfono di Adriana Fracchi. Il cinema è un luogo, quello che noi vogliamo provare a fare è di trasmettere in quei luoghi la nostra musica per avere un pubblico sempre più ampio e per creare una situazione in quei luoghi che riecheggi la situazione del trovarsi all'interno della Scala, ma con molti maggiori vantaggi dal punto di vista dell'acustica, vista della tecnologia, e anche con la possibilità da dare al pubblico di sentirsi, di fare club che ascolta musica, cioè creare una sorta di posto per ognuno come se andasse a teatro e creare quindi una situazione che è simile a quella di trovarsi uno spettacolo dal vivo. Naturalmente i benefici ulteriori che facciano in modo che oltre che trovarsi a sentire un concerto, il pubblico si ritrovi dentro la cucina che produce il concerto e lo viva proprio partecipando molto di più di quello che potrebbe fare trovandosi nel teatro. Ed è tutto per questo GR24, il prossimo alle 14. GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.